Una nostra vicina mi ha raccontato il seguente episodio. Un giorno sua figlia tredicenne accompagnò una coppia di sposi loro amici che andavano in ferie con la roulotte. Quando ritornò a casa, la bambina confidò alla mamma che aveva visto gli sposi fare all'amore. La bambina, per dimostrare che diceva il vero, raccontò alla madre tutti i particolari. Ma poiché le cose non corrispondevano alla realtà, la mamma, desiderosa di correggere la bambina, all'inizio cominciò a contraddirla, ma visto che non otteneva nulla, decise di spiegare per filo e per segno come stavano le cose. Dopo aver ascoltato attentamente la mamma, la bambina disse tutta orgogliosa: «Grazie mamma, io non ho visto niente, ma è proprio quello che volevo sapere». La curiosità è innata nell'essere umano. Quella relativa al sesso, oltre ad essere una curiosità, è una necessità. È raro che un bambino non abbia chiesto ai suoi genitori prima di 6 anni come nascano i bambini. È raro che un ragazzo prima di 13 anni non si sia informato sui particolari dell'atto sessuale. E, al giorno d'oggi, è altrettanto raro che egli non abbia avuto qualche esperienza sessuale, anche fosse solo un bacio. Proprio per questo è saggio affrontare l'argomento della sessualità per almeno 7 motivi. 1. Salvo eccezioni, tutti sono chiamati al matrimonio, di conseguenza ad esercitare la sessualità. 2. In una chiesa i giovani crescono. Quello che prima non interessava ad un bambino, in seguito diventa di bruciante attualità. 3. Ad una chiesa si aggiungono continuamente neoconvertiti. Ciò che è stato detto in precedenza non è conosciuto da costoro. 4. Vi sono dei giovani che apparentemente conducono una vita irreprensibile, ma, in seguito, si scopre che essi erano schiavi di passioni sessuali. Purtroppo alcune ragazze hanno avuto un bambino, mentre altre hanno abortito per la vergogna. 5. Certi giovani non conoscono la potenza seduttrice del sesso e ne divengono vittime per ignoranza. 6. Troppe coppie vivono un rapporto infernale a causa di problemi morali inerenti al sesso. 7. Avendo un'idea sbagliata riguardo a divorzio ed adulterio, caricheremo di pesi inutili il nostro prossimo. È dunque non solo utile, ma anche essenziale affrontare l'argomento della sessualità. Mi trovavo in una località di mare e passeggiavo sul molo divertendomi a leggere le scritte dei giovani. Una diceva: «Riccardo, sei la luce dei miei occhi, che illumina la mia anima e trasforma il mio spirito in un arcobaleno. Sei la parte del mio cuore, che arriva alle tue mani». Simili espressioni sono tipiche di un religioso che professa di credere in Dio, sì. Che lo vogliamo riconoscere o no, la sessualità parla con la voce di un Dio. Purtroppo, i migliori pensatori cristiani dichiarano di non sapere che cosa significhi essere uomini e donne. Purtroppo, non solo riconoscono la loro ignoranza, ma si vergognano di affrontare argomenti inerenti al sesso. Così, come disse qualcuno, gli adulti si vergognano dell'erotismo e lo abbandonano ai giovani che non sanno come usarlo rettamente. Ecco che abbiamo sposi cristiani che trasudano noia da tutti i pori e che avranno per figli dei felici pagani. Affronto l'argomento della sessualità non solo con il proposito di informare, ma anche con quello di determinare un cambiamento positivo nei riguardi della sessualità. Considereremo la sessualità sotto 3 aspetti. 1. La sessualità come principio divino. 2. La sessualità giovanile. 3. La sessualità nel matrimonio. La sessualità è un principio divino. Ancora una volta siamo costretti ad andare alle origini del mondo, poiché in quell'atto troviamo la spiegazione alle grandi domande della nostra vita. Leggiamo, nel libro della Genesi, la descrizione dell'opera di restaurazione della terra, compiuta da Dio in 6 giorni, perché essa era informe e vuota. Prendiamo nota ciò che fece il terzo, il quinto e sesto giorno. Poi Dio disse: faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme, gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie, e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, il terzo giorno. Poi Dio disse: brulichino le acque di moltitudini di esseri viventi, e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio firmamento del cielo. Così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, di cui brulicano le acque ciascuno secondo la propria specie ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono, e Dio li benedisse dicendo: siate fruttiferi, moltiplicate e riempite le acque dei mari, e gli uccelli si moltiplichino sulla terra. Così fu sera, poi fu mattina, il quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e fiere della terra, secondo la loro specie. E così fu. E Dio fece le fiere della terra, secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse: loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Nell'ultimo giorno, nell'opera di restaurazione della terra, Dio creò l'uomo, Adamo ed Eva, un maschio e una femmina, due esseri con caratteristiche sessuali diverse e complementari. Quello che forse ci sfugge è che, già il terzo giorno, Dio aveva creato delle cose sessuate, vale a dire aventi caratteristiche maschili e femminili. Egli creò infatti la verdura e le piante, che avevano in sé il proprio seme. In pratica, avevano la capacità di riprodursi. Poi, il quinto giorno creò degli animali che vivessero nell'atmosfera e nell'idrosfera e che potevano riprodursi. Infine, il sesto giorno creò degli animali per la litosfera e, per ultimo, l'uomo. La sessualità non è una caratteristica da riferirsi unicamente alla razza umana. Essa appartiene anche al regno animale e vegetale. Questo particolare dovrebbe dissipare quell'alone di mistero che la circonda per riportare la sessualità sul piano di naturalezza nel quale era stata concepita dal Creatore. La sessualità è infatti un principio divino. Dio l'ha creata prima di formare l'uomo. Essa gli appartiene giacché anch'egli è un essere sessuato. Creando l'uomo a sua immagine e somiglianza, Dio non poteva creare un essere solo, perché un essere solo non sarebbe stato sufficiente a rassomigliarlo. Così ha creato due esseri diversi, con diverse caratteristiche sessuali. Questo dimostra che Dio non è solo di genere maschile o femminile, ma egli è entrambi, cioè è maschio e femmina. Possiamo comprendere meglio questo aspetto pensando ai nomi di Dio. Nell'Antico Testamento il nome aveva una grandissima importanza, perché vi era un rapporto diretto alla persona e il nome che questa portava. Il nome rivelava l'essenza stessa della persona. Il nome è la persona, per questo Mosè, pur sapendo di trovarsi alla presenza di Dio, gli chiede il suo nome. Così, mentre il nome Elohim ci parla della sua forza e fedeltà, il nome Yahweh ci parla della sua eterna esistenza, il nome Yahweh Shalom ci parla della sua pace, il nome El Shaddai ha il significato di petto, di seno, e nella Bibbia viene quasi sempre usato per indicare le mammelle femminili, Giobbe 3 e 12. Perciò la parola Shaddai significa che ha del petto, cioè colui che nutre, che infonde sicurezza, quiete e soddisfazione, colui che elargisce benedizioni, il supremo donatore, vale a dire, colui che racchiude in sé gli attributi di un padre e di una madre. Solo Dio può avere le caratteristiche che hanno un uomo e una donna, perché un uomo e una donna sono fatti ad immagine di Dio. Egli è colui che genera come un uomo, ma anche colui che nutre come una donna, è colui che corregge come un padre, ma anche colui che consola come una madre. Clive Staples Lewis fa notare che il corpo e la nostra personalità sono i negativi della divinità e che la sessualità dovrebbe essere vista come la trasposizione in chiave minore di quella gioia creativa dimorante, ininterrotta e irresistibile in Dio. Ecco perché possiamo affermare che, in cielo, ognuno di noi manterrà la propria identità sessuale. Con questo non si vuol sostenere che ci si sposerà o che avremo rapporti sessuali, ma che ognuno sarà pienamente maschio o femmina, in conformità di quello che era sulla terra. Se così non fosse, in cielo non avremmo più un essere creato ad immagine di Dio, perché per rappresentare le caratteristiche di Dio occorrono un maschio ed una femmina. Rifiutare quindi la propria sessualità, come alcuni fanno, è quindi arrecare un'offesa a Dio. Ogni cristiano è chiamato a vivere la propria sessualità nella sua pienezza, per glorificare colui che l'ha donata. Ogni sposa che rifiuti il suo ruolo offende prima Dio che il suo sposo. Ogni marito che abusa della sessualità offende prima Dio che la sua sposa. Solo accettando la tua sessualità puoi veramente essere uno strumento nelle mani di Dio, perché non puoi essere un vero uomo o una vera donna senza essere in armonia con te stesso e quindi con la tua sessualità. Tutti sappiamo che dopo la disubbidienza Adamo ed Eva coprirono la loro nudità di loro spontanea volontà con quello che potevano, cioè con delle foglie di fico. In seguito, quando l'Eterno li chiamò, essi motivarono la ragione di essersi nascosti, non tanto confessando la loro disubbidienza, quanto affermando d'essersi resi conto della loro nudità. Per questo l'Eterno fece delle tuniche di pelle e li vestì. Il primo vestito quindi fu fatto da Dio per i nostri progenitori, non per vanità, per bellezza, ma per necessità, per coprire una parte del corpo che essi si vergognavano di mostrare. La lezione per noi è questa: non dobbiamo mai dimenticare la ragione che ci induce a vestirci, e per coprire la nostra nudità, e non per vestire all'ultima moda o per mostrare, questo è riferito principalmente alle donne, parti del corpo, al fine di provocare o attirare l'attenzione altrui. E, in questo spirito che va letto l'ordine di Pietro rivolto alle donne, il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore, con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. 1 Pietro 3, 3 a 4. Dio non vieta alle donne di portare oggetti utili ad esaltare la propria femminilità. Egli però ordina loro di vestire senza avere l'intenzione di vantarsi o di provocare sguardi seducenti. Purtroppo, pochi genitori hanno compreso il fine di tale ordine divino. Per questo, le loro figlie vanno in giro mostrando con orgoglio parti del corpo che, in verità, andrebbero coperte. Mi chiederete quali siano le parti del corpo che non sia lecito mostrare. Scriveva una mamma in un periodico. Sulla modestia e la decenza mi pare che i genitori dovrebbero tenere duro. Secondo me non è nessuna ragione plausibile che una ragazza mostri l'ombelico a tutti i passanti e che porti gonne con spacchi che permettono di vedere il colore delle sue mutande. Ascoltiamo una riflessione tratta dal libro Quanto siamo salvati di Mike Brown. Un tempo evangelizzavamo effettivamente i perduti, oggi li intratteniamo. Noi abbiamo più un Vangelo soap opera che un Vangelo svenduto. E qui è la tragedia di tutto questo. Noi abbiamo conformato i nostri valori ai modelli costantemente in declino della nostra società per così tanto tempo, che non realizziamo nemmeno quanto siamo caduti in basso. Prendiamo l'esempio del vestire modesto. Alla fine del secolo scorso, quando le persone andavano in spiaggia, erano praticamente coperte dalla testa ai piedi. Da allora, a poco, sempre più pelle è stata messa in mostra fino ai nostri giorni, nei quali va bene pressoché tutto. Così, cosa fanno adesso i credenti amanti della spiaggia? Entrano nelle stesse acque infestate di pelle, circondati da corpi mezzi nudi. Attualmente mezzo nudo non sarebbe così male. E indossano modesti costumi da bagno. Qualcuno cerca di giustificare persino modesti bikini. Modesti in rapporto a cosa? A una moderna versione delle foglie di fico? Con quanta libertà ci esponiamo in maniera così provocante? Noi ci stiamo conformando ai modelli del mondo. E cosa faremo se il nostro paese legalizzerà il nudismo? Continueremo a frequentare quelle spiagge? Cercheremo di sviluppare un modesto look nudo. Dio ci aiuti a vedere. Molto probabilmente qualcuno riterrà queste riflessioni fatte da un romantico cristiano, che non accetta il cambiamento dei costumi. Qualcosa di vero però c'è. Chi desidera onorare Dio nel vestire? Osservi quali abiti indossa una donna di 60 anni timorata di Dio perché, a quell'età, la vanità della gioventù è svanita. Non intendo sostenere che una giovane si debba vestire come un'anziana, che debba rinunciare a graziosi vestiti, ma il modo di vestirsi di un'anziana può essere di esempio. Chi ha orecchi da udire, oda. La sessualità giovanile. Ogni essere umano riceve le proprie caratteristiche sessuali al momento del concepimento. Subito dopo, il corpo che sta compiendo la propria evoluzione nell'utero si sviluppa in funzione del sesso, che è stato determinato, perché anche fisiologicamente un maschio e una femmina hanno delle diversità. Subito dopo la nascita, ogni essere umano comincia ad esprimersi secondo le proprie caratteristiche sessuali, sebbene il bambino o la bambina non ne siano coscienti. Vediamo i maschi più inclini ai giochi violenti e a dominare, mentre le bambine giocano alle bambole o fare la mamma. È evidente che queste inclinazioni non siano altro che la preparazione ad una funzione più alta, che si compirà quando essi saranno adulti. La sessualità, o meglio gli istinti sessuali veri e propri, il giovane li conosce e li scopre nel periodo della pubertà. I giovani che non siano stati istruiti in modo adeguato vedranno comparire questi istinti come forze oscure, pericolose, minacciose, di cui essi avranno paura e di cui cadranno tanto facilmente quanto incoscientemente preda. Ecco quindi la grande responsabilità del genitore di istruire adeguatamente i figli nel campo sessuale. Quando, mi chiederete, quando essi fanno domande, le risposte devono essere chiare e precise. La sessualità per un giovane rimarrà lo stesso e sempre una forza oscura da gestire. Questo fatto porta i giovani a gestirla male, se non a gestirla per niente. Senza volere scaricare sempre le colpe sugli altri, è anche vero che la televisione è la gran responsabile di certe libertà erotiche. Il bacio passionale è proposto con una tale libertà che, difficilmente, il giovane considera il bacio per ciò che esso in realtà rappresenta: una porta aperta al rapporto sessuale. Le labbra sembrano le parti più innocue del nostro corpo. Usate innanzitempo per esprimere la propria passione, esse hanno un potere eccitante e spesso incontrollabile sulla libido, conducendo i due a dare sfogo ai propri naturali istinti, sfogo che spesso lascia dei segni che durano per tutta la vita. La sessualità è un dono di Dio e come tale non dovrebbe creare problemi. Nonostante questo, se ci sono problemi che i giovani sentano, essi sono proprio nel campo sessuale. Come deve essere vissuta l'amicizia? Come devono comportarsi due giovani che si piacciono? Cosa è lecito nell'ambito del fidanzamento? E giusto baciarsi? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che i giovani si pongono e che pongono agli adulti. Purtroppo, la maggior parte dei giovani hanno già una risposta ai loro interrogativi, perciò essi si aspettano di ricevere solo delle argomentazioni che approvino le loro opinioni. Vi sono però anche alcuni che sono desiderosi di fare la volontà di Dio. A questi unicamente mi rivolgo. Dobbiamo premettere questo. I giovani hanno dei problemi nell'ambito della sessualità, perché non rispettano i loro istinti. Nella cultura ebraica il matrimonio si celebrava, come in certi ambienti orientali, durante il periodo della pubertà. Questo vuol dire che, a 20 anni, una ragazza aveva già due o tre figli. Quando due giovani erano fidanzati, spesso la fidanzata era scelta dai genitori, il fidanzato vedeva la fidanzata una volta, spesso ancora bambina, e la rivedeva solo il giorno del matrimonio. Durante il fidanzamento non vi era nessun contatto tra i due promessi, sposi se non verbale, tramite gli amici. Questa cultura, per quanto retrograda e assurda per noi occidentali, aveva un vantaggio pratico. I fidanzati non avevano fra di loro problemi d'ordine sessuale. Gli ebrei conoscevano come funziona la vita. Essi non si abbandonavano a sogni romantici. Non vivevano la loro esistenza con un sottofondo musicale da colonna sonora di un film, come Scandalo al Sole o Ghost. Essi sapevano che 2 più 2 fa 4. Erano coscienti che un maschio e una femmina si attraggono per natura e che, per istinto naturale, essi tendono ad unirsi fisicamente, a prescindere dal fatto che vi sia un sentimento romantico o meno. Durante il periodo della pubertà, un maschio e una femmina sono attratti, essi desiderano fare sesso, per cui, se essi non imparano a contenere i propri istinti sessuali, agendo in modo da provocare impulsi sessuali e da stimolare la loro sessualità, è normale che desiderino fare sesso. E normale non può essere anormale. E anormale invece se un giovane non desidera sessualmente una ragazza, o se una ragazza non desidera essere cercata e apprezzata. È inutile quindi dare delle direttive ai ragazzi su come vivere il fidanzamento, cosa è lecito tra i giovani nell'ambito sessuale, che cosa possono fare o non devono fare. Gli impulsi sessuali gridano così forte in loro da turare le orecchie ad ogni avvertimento. E come dare consigli ad uno che sia schiavo dell'alcol? Non serve dirgli che deve bere solo un bicchierino, che quando va al bar egli deve solo giocare a carte e che non deve pensare al bere, ma deve trattenersi. E, tutto inutile, è sufficiente ricordargli che non deve andare al bar. Punto e basta, tutto il resto viene da sé. Così non bisogna dare ai giovani un lungo elenco di proibizioni. È sufficiente che non si incontrino. È sufficiente che non si vedano. Secondo la nostra cultura, però, questo non è possibile. È sufficiente quindi che due giovani che si piacciono non stiano mai soli in luoghi solitari. È sufficiente che la ragazza non si lasci mai toccare, che il ragazzo si proponga di non toccarla. È inutile suscitare delle passioni e poi pretendere di dominarle, perché ciò è contro natura. E contro natura baciarsi appassionatamente e poi volersi fermare. E contro natura esprimere il proprio amore e poi non desiderare rapporti sessuali. Possiamo dominare i nostri istinti qualche volta, ma alla fine dobbiamo ubbidire all'istinto preponderante della sessualità, che governa tutta la creazione. Così, se una ragazza non si facesse mai toccare nelle parti del corpo comprese tra le ginocchia e i gomiti, molti, moltissimi problemi di ordine sessuale sarebbero risolti. Per non volermi riferire a fatti personali o a persone conosciute, prendo in prestito la sincera testimonianza di Johnny Erickson, trovata in un suo libro in cui ella racconta le sue debolezze nell'ambito della sua amicizia con un ragazzo. Avevamo un luogo di incontro favorito, un parco dove passeggiavamo a lungo, chiacchierando. Anche Jason era impegnato a lungo in Young Life. Così, spesso, ci scambiavamo idee sulla nostra vita spirituale e pregavamo insieme. Qualche sera uscivo anche di nascosto, passando dalla finestra della mia camera da letto. Finché una volta la mamma non mi sorprese in flagrante. Da allora fu bene attenta che io rispettassi le regole. Ben presto con Jason cominciarono i veri conflitti. Eravamo ambedue all'ultimo anno di liceo e sapevamo come cristiani dovevamo rispettare dei limiti chiari nell'esprimere reciproco affetto. Nessuno dei due però disponeva di risorse interiori così solide da consentirci di resistere alle tentazioni. Andavamo spesso fuori, in macchina o a cavallo, e accadeva che attraversassimo belle zone alberate, sotto incantevoli cieli azzurri segnati da bianche nuvole estive, mentre i suoni e i profumi della campagna assumevano toni terribilmente romantici e eccitanti. Prima che ci rendessimo conto di quello che stava succedendo, le innocenti giovanili espressioni di amore, tenersi per mano e abbracciarsi teneramente, si spingevano oltre i limiti. Ci abbracciavamo e ci accarezzavamo con un'intimità e una passione che né l'uno né altra riuscivamo a controllare. Volevamo fermarci, ma poi, non appena ci trovavamo in qualche luogo isolato, cadevamo l'una nelle braccia dell'altro. Per questa nostra mancanza di autocontrollo eravamo sempre tremendamente turbati. Jason, perché non riusciamo a smettere? Cosa c'è? È di sbagliato nel nostro rapporto? Gli chiesi una sera. Non lo so. Penso che dovremmo fare così, ma... Si fermò imbarazzato. Jason, non dobbiamo più vederci per un po'. È l'unico modo. Io non riesco a fermarmi, tu neanche. Ogni volta che siamo da soli, noi pecchiamo. Se siamo veramente seri nel volerci pentire di tutto questo, dobbiamo stare lontani l'uno dall'altra per un po'. Forse abbiamo bisogno di maturare di più. Jason rimase in silenzio, poi annuì. Forse dovremmo farlo. Ho letto questa testimonianza dopo aver già maturato le mie convinzioni e, sorprendentemente, ho notato come Johnny fosse arrivata alle stesse mie conclusioni. L'unico modo per vincere le tentazioni sessuali è quello di non essere mai soli e stare lontani l'uno dall'altro. Dopo essere passata per la scuola della sofferenza, Johnny testimonia: in quei giorni imparai a considerare la Bibbia come la vera guida che consente di vivere secondo la volontà di Dio. Il Signore non dava delle indicazioni per il comportamento senza che ci fossero delle precise ragioni. Ad esempio, nelle Scritture, Dio ci avverte che avere esperienze sessuali prima del matrimonio non è secondo la sua volontà. Nella Bibbia, su questo argomento specifico, ci sono un numero maggiore di avvertimenti che per qualsiasi altro atteggiamento peccaminoso, come la maldicenza, l'invidia, la menzogna. Di queste ultime cose la Bibbia dice: resistete al diavolo. Giacomo 4:7 invita a star fermi, a combattere e a vincere contro queste tentazioni. Riguardo ai peccati sessuali, invece, la Bibbia dice: fuggite, 1 Corinzi 6:18. Se avessi ubbidito alla Bibbia e non avessi ceduto alla tentazione, non sarei poi stata tormentata da desideri e fantasie irrealizzabili. Per quanto cercassi di escludere la realtà e di vivere intensamente sul piano della fantasia, non sarebbe mai stata la stessa cosa. I pensieri erano dunque un'immagine della realtà e non potevano dare nessuna soddisfazione. Avevo imparato delle lezioni dolorose dalla mia relazione con Jason ed ora ne raccoglievo ancora le conseguenze. L'amore fisico non è brutto, rivoltante o sporco, anzi è bello e eccitante. Ma Dio sa quanto sia frustrante senza il contesto del matrimonio. Conoscevo molte ragazze che avevano versato lacrime amare per motivi del genere. Avevano scoperto che la colpa e il rimorso per il sesso al di fuori del matrimonio erano tanto pesanti da incrinare anche relazioni che avrebbero potuto essere felici e ad insidiare la felicità dei matrimoni che avrebbero potuto avere successo. Anche questa testimonianza è eccezionale. Johnny ha fatto un'esperienza che è molto comune. Comprendiamo i divieti di Dio sulla sessualità dopo averli trasgrediti. Inoltre, Johnny si rese conto che le esperienze sessuali prima del matrimonio lasciano una traccia e possono condizionare anche il futuro matrimonio. Leggiamo ancora un'altra testimonianza di una ragazza che è diventata figlia di Dio in una lettera inviata ad un periodico. Sono credente da poco tempo e trovo una grande gioia nel frequentare gli altri credenti e fare parte della Chiesa. Ma non posso dimenticare il mio passato e non so che cosa fare. Ho avuto, penso, un numero più o meno normale di fidanzatini e qualche fidanzato, e ci siamo comportati come tutti, cioè non secondo gli insegnamenti biblici. E poi per un paio di anni ho convissuto con un collega di lavoro. Cosa dovrei dire se un credente mi chiede di sposarlo? Noi pensiamo di essere immuni da certe esperienze, da certi ricordi, ma il nostro cervello registra tutto e la nostra anima non dimentica. Purtroppo sono parole che nei giovani spesso passano da un orecchio ad un altro, senza lasciare traccia. Così abbiamo delle giovani vergini, ma non caste. Vergini fisicamente, ma sazi di amorosi piaceri. Proverbi 7:18. Parliamo della maturità. Qualcuno ha detto che il matrimonio è un'istituzione per adulti, non per bambini. Paul Tournier ha scritto che dovrebbero sposarsi solo coloro che sanno vivere da soli. Queste due definizioni mettono in risalto qualcosa di tremendamente vero, mettono il dito nella piaga di un matrimonio che non funziona. Spesso ci si sposa quando si è ancora immaturi psicologicamente, anche se si è in grado di avere rapporti sessuali. Succede così che il rapporto sessuale è insoddisfacente, la nostra personalità immatura, incompleta e distorta, rendendo il rapporto di coppia difficile se non impossibile. Due sposi immaturi sono inclini a litigare per un non nulla. Ecco perché è necessario porre alcune domande ai fidanzati. Il tuo partner si assume la propria responsabilità? Meno è disposto a legare definitivamente con te? Suscita frequenti discussioni che non approdano a nulla? Cerca disperatamente il contatto fisico? Ti costringe sempre a cedere? Lo vorresti lasciare, ma hai il timore che potrebbe avere una reazione in consulta? Escogita sempre delle scuse immaginarie per non lavorare? Soffre di un anormale senso di gelosia? Desidera avere dei bambini? Ti disprezza apertamente? Non ha con te concordia spirituale? Non accetta nessun rimprovero da te e non sa chiedere il tuo perdono per le offese che ti arreca? È difficile rispondere con obiettività a queste domande quando il cuore è impegnato fortemente. Non rispondere è ancora peggio, però. Nel periodo del fidanzamento è normale essere felici. Nel caso in cui la felicità dipenda, però, solo dal fidanzamento, allora si è immaturi. Ho letto, come sempre, con molta attenzione la testimonianza di Lewis in relazione alla morte di sua moglie. Egli ha scritto un libricino dal titolo Diario di un dolore. Nella prima pagina ha detto qualcosa che mi ha profondamente toccato. Nella vita di un uomo, l'amore non è tutto. Ero felice già prima di conoscere mia moglie. Stupendo. Questo significa essere uomini. Questo significa essere maturi. Questo è il requisito indispensabile per sposarsi. Se siete felici solo perché siete fidanzati, se la felicità è entrata nella vostra vita solo nel momento in cui avete conosciuto il vostro partner, allora non siete né maturi né pronti a sposarvi. La compagnia di una persona deve arricchirvi, non realizzarvi. L'incontro sessuale nel matrimonio serve per godere del rapporto di coppia, non per unirlo. Se è il sesso ad unire due sposi, quando questo non si praticherà più, che fine subirà il matrimonio? Non vi sono alternative. Un giovane che voglia onorare Dio e il matrimonio deve fuggire da tutto ciò che lo provochi nel campo sessuale. Ogni atto di debolezza è rischioso e può costare caro. Quando ero fidanzato, per dimostrare alla mia futura moglie che le volevo bene, non ho cercato di baciarla. Se lei non mi avesse chiesto un bacio sulla guancia, perché con quel gesto si sentiva amata, non l'avrei mai toccata. Non ero apatico verso di lei, non avevo idee poetiche, non ero un idealista. Sapevo che una volta rotto una certa intimità non sarebbe stato facile smettere. Si sarebbe solo proseguito in avanti nell'intimità, ma non saremmo riusciti a retrocedere. Accettare e tener conto di come siamo fatti sessualmente non è soltanto indispensabile, ma è anche un atto di saggezza che ci evita tanti problemi e dolori. La sessualità nell'ambito del matrimonio? Mia convinzione è che non si affrontino la sessualità e l'argomento del matrimonio con la dovuta maturità. Purtroppo siamo bombardati da ideali romantici e irreali. per cui è facile perdere di vista la realtà delle cose. Facciamo un esempio per comprendere come il rapporto di coppia possa essere alterato, perfino da una delle cose più apparentemente innocenti, i cartoni animati. Chi ha visto il cartone animato Bambi ricorderà i personaggi del coniglietto Tippete, della puzzola Fiorellino e di Bambi. Il racconto rispetta le conoscenze scientifiche in materia, ma, quando gli autori del cortometraggio arrivano a descrivere le scene dell'innamoramento dei tre personaggi principali, si assiste ad un capovolgimento di ruoli. Vediamo che un'avvenente coniglietta fulmina Tippete, che una puzzola seduce Fiorellino, che una bellissima cerbiatta fa gli occhi dolci a Bambi, il quale, ignaro del fatto che fosse arrivato il periodo degli amori, andava tranquillo per la sua strada. Tutto questo è irreale. Gli autori del cartone animato hanno attribuito agli animali il maledetto romanticismo della razza umana. Nel regno animale l'istinto sessuale è rimasto incorrotto. Sono i maschi che fanno la corte alle femmine, e non viceversa. Sono i maschi che, mossi da un irresistibile impulso sessuale, lottano, e a volte combattono, anche fino alla morte, per il possesso della femmina. Raffigurare le femmine che fanno la corte ai maschi è un abominio della realtà. Sebbene questo rovesciamento di ruoli piaccia, stuzzichi la nostra fantasia ed esalti il nostro romanticismo, esso eleva un inno al nostro falso e distorto concetto di amore. Distorcendo la realtà, facciamo del male a noi stessi. Mediante cartoni animati comunichiamo ai bambini informazioni sbagliate, irreali, e che si riveleranno, in futuro, deleterie nel rapporto di coppia. Ecco che l'uomo non prende iniziative né responsabilità, mentre la donna deve andare contro natura. Leggiamo in Geremia, poiché l'Eterno crea una cosa nuova sulla terra, la donna che corteggia l'uomo, Geremia 31:22, e che è la donna che ha bisogno di essere desiderata, cercata, corteggiata, e che la sua natura. Allo stesso modo, è nella natura dell'uomo cacciare, prendere l'iniziativa, avere autorità. Qualcuno ha detto, se dovessi puntare il dito contro un peccato devastante dei nostri tempi, non indicherei il cosiddetto movimento femminista, bensì la mancanza di autorità da parte degli uomini. Satana ha realizzato una vittoria tatticamente sorprendente, divulgando la nozione che la vocazione maschile all'autorità sia causata dall'orgoglio e dalla caduta, mentre, di fatto, l'autorità sfugge proprio all'orgoglio. A causa dello scambio di ruoli, la nostra società ha finito con l'essere composta da maschi patto e molli, invertebrati, passivi, che aspettano sempre l'imbeccata, e da donne, determinanti la morale sociale, che castrano la virilità maschile. Molti psicologi si chiedono come mai l'impotenza maschile sia in aumento. Le loro ricerche saranno senza frutto se essi non torneranno ad esaminare i ruoli da Dio affidati al maschio o alla femmina, anche nell'ambito sessuale. L'organo principale del sesso è il cervello. Se questo non è ben istruito, non vi sono medicine e cure che possano sanarlo. Nel matrimonio amministriamo la sessualità né più né meno di come l'abbiamo gestita da giovani. E, un'illusione giovanile, pensare che una volta sposati i problemi sessuali saranno risolti. La sessualità vissuta nell'ambito matrimoniale è un mondo tutto da scoprire, anche per coloro che ne abbiano esercitata l'esperienza prima del matrimonio, perché ognuno di noi si relaziona in modo diverso con essa. In un convegno, tenutosi a Poggio Bertini, relativo al matrimonio, i cui partecipanti erano tutti figli di Dio, è risultato in modo evidente come quasi tutte le coppie cristiane avessero problemi in campo sessuale. Alcune spose ritenevano il rapporto sessuale un peccato, altre si vergognavano di farsi vedere nude dal marito, molte altre avevano problemi di coscienza su come gestire la sessualità. Gesù Cristo ha indubbiamente salvato i figli di Dio dall'inferno, ma pare che egli non li abbia salvati dall'inferno di una sessualità distorta. Vi è chi vive il dono della sessualità come se avesse una brace ardente in mano, non vedendo l'ora di passarla ad altri. Eppure, prima di peccare, Adamo ed Eva erano nudi e non se ne vergognavano. In seguito, Dopo la disubbidienza, si vergognarono di mostrarsi dall'Eterno che passeggiava nel giardino. Ma non tra loro. La conversione dovrebbe purificare la coscienza dei figli di Dio, anche nell'ambito della sessualità. Vergognarsi della propria sessualità palesata nei riguardi di un estraneo è giusto, lecito e doveroso. Vergognarsene però con il proprio partner, non desiderare di essere da questo guardati, toccati o desiderati, è un sintomo negativo. Qualsiasi sia la ragione addotta per giustificare questo atteggiamento, una cosa è certa: il partner è sentito come un estraneo. Questo significa disonorare il matrimonio. Per questo motivo pochi sono i temi così importanti da affrontare come quello della sessualità nell'ambito del matrimonio. Sembra che fare sesso sia una cosa automatica. Noi esseri umani non abbiamo solo degli istinti simili agli animali, non cerchiamo solo l'unione di due corpi. Abbiamo infatti tutta una serie di necessità morali e spirituali che, se non vengono soddisfatte, lasciano il rapporto sessuale insoddisfacente. Se non fosse così, sarebbe inspiegabile l'inquietudine sessuale così frequente nelle coppie. Non avremmo una ragione plausibile per la quale tanti uomini tradiscano la moglie o desiderino placare i propri istinti con delle prostitute. Che cosa cercano questi uomini in altre donne? È troppo facile e semplice accusarli di cercare un capriccio o un'avventura. Non è sempre così. Brave spose, esseri mariti, si sono trovati nelle braccia di qualcun altro, senza accorgersene. Ho letto la testimonianza di una sposa credente che all'improvviso fu baciata con passione dal migliore amico di suo marito, trovandosi, con stupore, a rispondere essa stessa con la medesima passione. Ripresasi dallo shock, si esaminò. Si rese conto che, dall'amico di suo marito, aveva ricevuto cose che il marito non gli aveva dato. Tempo, l'ascoltava, diceva parole gentili. La trattava con gentilezza e premura. Una situazione del genere rende vulnerabile ogni coniuge. Nell'uomo giocano altri fattori. L'atto sessuale non è solo un appagamento fisiologico. Esso è l'atto mediante il quale egli esprime il suo desiderio di sentire che la sposa brama essere da lui posseduta. Atto mirato a trovare la certezza di avere una sposa che acconsente e non subisce al rapporto sessuale. Questi fattori psicologici possono essere soffocati dall'impulsività sessuale, frequente nei primi anni di matrimonio. Escono però prepotentemente fuori con l'andare del tempo, influenzando negativamente il rapporto di coppia. Questa è una delle ragioni principali dell'infedeltà matrimoniale maschile. Ad una donna questi fattori psicologici possono sembrare storie, capricci. A volte, offendendo il proprio marito, essa lo schernisce riguardo le sue necessità. Alla stessa stregua, l'uomo, non comprendendo la componente psichica femminile, cade nell'errore di disprezzare la donna, perché ella desidera essere ascoltata, apprezzata, trattata con premura, ma soprattutto non sentirsi usata. Una donna si lamentava di suo marito perché aveva la sensazione che lui non facesse l'amore con lei, ma con i suoi sogni, e che si masturbasse con il suo corpo. Lei non era il fine, ma il mezzo. Sì, tutte le coppie fanno sesso. Poche, pochissime, desiderano però fare sesso. E questa, a mio avviso, è la ragione fondamentale che distingue una coppia da un'altra. Un matrimonio riuscito è anche quello in cui due sposi si cercano e si desiderano nell'atto sessuale. Per quanto posso avere capito, nell'ambito sessuale, ciò che turba o sconvolge i credenti non sono tanto i problemi sessuali interni alla coppia, quanto gli eventuali rapporti extraconiugali. In altre parole, il tradimento, l'adulterio, il divorzio. Che le coppie abbiano dei conflitti nel campo del sesso è comunemente accettato. In fondo, tutti ne hanno, e così. Chi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Quando però si verifica un tradimento, un adulterio, un divorzio, allora non ci si vede più, non lo si accetta, si grida allo scandalo. Proprio a causa di un tale atteggiamento, faccio una considerazione in merito all'adulterio. Pochi, pochissimi hanno compreso una certa conversazione di Gesù con i farisei. Allora gli si accostarono alcuni farisei per tentarlo e gli dissero: «È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che chi li creò da principio li creò maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie e i due diverranno una sola carne. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme l'uomo non lo separi». Essi gli dissero: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via?» Egli disse loro: «Per la durezza dei vostri cuori Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non era così. O io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chi sposa colei che è stata mandata via, commette adulterio». I suoi discepoli gli dissero: «Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi». Ma egli disse loro: «Non tutti sono capaci di accettare questo parlare, ma è per coloro ai quali è stato dato. Poiché vi sono degli eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, vi sono degli eunuchi che sono stati fatti eunuchi degli uomini, e vi sono eunuchi che si sono fatti eunuchi da se stessi per il regno dei cieli. Chi è in grado di accettarlo, lo accetti». Matteo 19:3-17. La conversazione verteva sul ripudio. Gesù fece notare che qualsiasi tipo di ripudio del coniuge, che non fosse motivato da fornicazione, vale a dire da una stabile relazione sessuale extraconiugale, non era lecita. Chi ripudiava se risposava diventava adultero e faceva diventare tale anche colui che sposava la persona ripudiata. I farisei, nel sentire questa sentenza così radicale, risposero che era meglio non sposarsi, giacché il ripudio era lecito solo in caso di fornicazione. La replica di Gesù non si fece attendere: «Non tutti sono capaci di vivere da celibi». Gesù invita a non sposarsi solo chi sia in grado di farlo. Non è dato però a chiunque di poter vivere senza una donna, astenendosi dai rapporti sessuali. Nulla di particolare. Come ho già detto, tutta l'Antico Testamento URA funziona così. Il regno vegetale ed animale continua a perpetuarsi tramite la sessualità. La razza umana continua ad esistere perché l'uomo soggiace ad un impulso sessuale irresistibile. Un impulso tanto forte che solo pochissimi sono in grado di non assecondare. Disse Calvino: «Il matrimonio nasconde la vergogna dell'incontinenza. Chi si sposi deve assolutamente tenere presente ciò che Gesù ha detto». È un duro colpo sferzato al nostro romanticismo, ma se gli sposi, e specialmente le donne, non considerano il sesso come atto di volontà per soddisfare una necessità naturale, ecco aprirsi la strada all'adulterio. Se vogliamo eliminare i peccati, guarire errori, dolori, problemi nell'ambito della sessualità, sia essa gestita da giovani o da coniugi, dobbiamo imparare a distinguere fra ciò che è realmente scritto e ciò che si legge abitualmente, fra ciò che è realmente divino e contemporaneamente anche umano, da ciò che si predica come eco dai pulpiti. Dobbiamo essere realisti, umani, perché la legge di Dio non è concepita contro la nostra natura. Ciò che è proibito dalla parola di Dio sono le inclinazioni sbagliate. Se, interpretando le scritture, non teniamo presente la nostra natura, siamo costretti a diventare disumani. Ci sono spose che si convertono a Dio avendo dei mariti insensibili, senza affezione naturale. Alcuni di questi sono ubriaconi, picchiano la moglie, le estorcono i soldi, costringendo la donna a sostenere anche economicamente un tale uomo. Che cosa dire? Per Dio tale matrimonio è indissolubile. La moglie deve rimanere sottomessa. La legge di Dio è più umana. In riferimento ad un uomo che si risposi, leggiamo: «Se prende un'altra moglie, egli non diminuirà il suo cibo, il suo vestiario e la sua coabitazione. Se non fa per lei queste tre cose, ella se ne andrà per niente, senza pagamento di prezzo». Esodo 21:10-11. Il testo in questione si riferisce ad un uomo che poteva avere più mogli, alla seconda moglie, che poteva essere una schiava. L'uomo doveva assicurare tre cose: vitto, vestiario, coabitazione. Se non riceveva queste tre cose, la donna poteva andarsene. Poteva l'Eterno permettere che la moglie lasciasse il marito, considerando che il matrimonio è da molti ritenuto indissolubile? Perché Dio non ha detto alla donna di stare sottomessa in ogni caso? La risposta è ovvia se si tiene presa nel contesto. Per quella che era una realtà umana dell'epoca, una donna non poteva vivere senza essere protetta e sostenuta da un uomo. Ogni verità di Dio, se non è riportata su un livello umano, diventa disumana. Per questo Gesù rivolse parole dure ai farisei che condannavano i suoi discepoli perché facevano ciò che non è lecito in giorno di sabato. Ora, se voi sapeste che cosa significa «io voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti. Sì, Gesù ci ordina di essere santi, ci comanda di mettere in pratica la sua volontà. Prima di tutto, però, egli vuole misericordia nei giudizi. La sessualità è un dono di Dio che deve essere gestito. Essa ha una sua sfera di libertà, così come di divieti. Non è lecito esprimerla come e quando si voglia. Così come prima del matrimonio non è lecito esprimerla liberamente, vi sono situazioni durante questo che devono essere considerate con misericordia e umanità. La mia opinione personale è questa. Una Chiesa dovrebbe stabilire delle regole morali nell'ambito della sessualità e esuli dal contesto culturale. Faccio l'esempio del divorzio. In America un uomo può divorziare e risposarsi nel giro di una giornata. In Italia un divorziato per legge, tempo fa, doveva aspettare alcuni anni prima di sposarsi. I cristiani, che si rifacciano alle leggi dello Stato, per stabilire ciò che riguardi la loro morale, permettono che il concetto di peccato sia definito dallo Stato e non da Dio. Sarebbe auspicabile che la Chiesa universale avesse unitamente la stessa morale, ma poiché tutti abbiamo delle norme culturali transitorie, è impossibile che un americano, un africano, un europeo, un australiano abbiano la stessa morale. Il mio discorso è quindi rivolto solo a figli di Dio che siano italiani. Dobbiamo affrontare la sessualità in tutti i suoi aspetti, avere dei principi suscitati dalla Scrittura. Soprattutto dobbiamo applicarli con misericordia, perché in fondo, come disse Gesù Cristo, tutta la legge e i profeti, cioè i comandamenti di Dio, si riassumono in una sola proposizione. Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, Antico Testamento e anche voi a loro, Matteo 7:12. Ottobre 2002, Ellero.